La stanza a pochi metri è forse troppo amore. Il ventilatore fermo, bloccato come noi. Avrei voluto rose per farti addormentare e svegliarti coi colori dei quadri di Chagall. Cielo tutto intorno, tropico e perfetto, come un legno così caldo, un acceso sentimento. Ah, che occhi belli da volerci far l'amore e rubarteli per sempre. Poterli raccontare una domenica di settembre. Stanze pochi metri e non c'è neanche il mare. Assurdo immaginarsi un volo di gabbiani, ma tu ci devi vivere, io me ne voglio andare, ti cercherò comunque nel modo che conosco. Ah, che occhi belli da volerci fare far l'amore e rubarteli per sempre. Grazie. Eden Zammit, pianoforte, tastiere. Lorenzo Feliciati, basso. Michele Ascolese, chitarre e buzzuchi. Lucrezio De Seta, batteria. Al suono, Fabrizio Bagarini.